Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Alessandro Tiberio di Valmin che lo distribuisce sul film Marie Curie, di nuovo al cinema da lunedì 15 giugno 2020. Alessandro, ben trovato. Ciao Federico, ben trovati tutti voi. Raccontiamolo brevemente. Sì, Marie Curie è abbastanza linearmente la biografia di questa donna straordinaria. Marie Curie, anzi Maria Sklodowska, è stata una delle più grandi scienziate del XX secolo, è stata la prima donna a vincere un premio Nobel nel 1903 assieme al marito Pierre Curie per la scoperta del radio, è stata la prima donna a scoprire appunto le proprietà di questo elemento e a sperimentarne le capacità curative sulle cellule cancerogene. Marie Curie non è stata solo la prima donna premio Nobel, la prima scienziata di rilievo internazionale senza precedenti, ma è stata anche l'unica donna della storia a vincere due premi Nobel. E da questo elegantissimo e raffinato biopic emerge non soltanto la figura della grande scienziata, che era appunto donna straordinaria in un mondo completamente dominato dagli uomini, che non le riconoscevano un valore autonomo perché era sempre accompagnata dal marito Pierre Curie, accademico di grande fama, ma che poi purtroppo in un incidente tragico Pierre Curie perde la vita e Marie Curie si ritrova da sola a dover sostenere tutta la sua ricerca e quelle che allora erano delle tecniche di cura straordinarie che non venivano riconosciute nemmeno dal mondo accademico, che all'epoca non credeva nemmeno che esistesse l'elemento del radio. Il film mostra anche il lato profondamente intimo e sentimentale, emozionale di questa donna che appunto è rimasta vedova, cerca di difendere non solo il proprio ruolo ma anche il proprio diritto a ricostruirsi una vita. Madre di due figlie, con tutte le difficoltà del caso di essere sostanzialmente una ragazza madre all'epoca, cosa inconcepibile, ha poi intessuto una relazione con un altro grandissimo scienziato, Paul Langevin, e questa relazione creò uno scandalo senza precedenti nel mondo francese dell'epoca, tanto che c'è stata una lunghissima guerra, battaglia, prima di riconoscerle anche il secondo premio Nobel. Lei ha vinto un premio Nobel per la fisica e uno per la chimica. Questo anche per far capire che tipo di genio trasversale era questa donna straordinaria. E quindi il film riesce mirabilmente a mettere insieme questa componente della parte della scientificità, della lotta per affermare il diritto a essere riconosciute per le donne di quel periodo come delle grandi protagoniste del mondo culturale e scientifico e dall'altra la lotta di una donna per far accettare e affermare il proprio diritto di provare dei sentimenti e di provare delle emozioni. Tra l'altro non è solo una questione di morale, c'è un passaggio nel film in cui viene anche tacciata di essere un'ebrea e quindi questo richiama un forte parallelo con il caso Dreyfus. Sì, questo è vero, c'è questa sottotraccia molto così inquietante perché sì, Maria Sklodowska era ebrea, appunto questo creò tutta una serie di malintesi e di anzi una sorta di ostracismo ancora più acerrimo nei suoi confronti e che fa capire come già all'epoca, all'inizio del Novecento, una certa ideologia e una certa faziosità stava prendendo piede in maniera veramente terrificante. Il parallelismo con Dreyfus in questo senso è giustificato da un lato, poi chiaramente il contesto è stato completamente diverso e lei non ha subito, diciamo, tutta quella serie di torture che ha subito una figura come Dreyfus, però sicuramente già all'epoca, all'inizio del Novecento, era un forte segnale d'allarme di quello che poi sarebbe stata, insomma, una delle pagine più buie della storia dell'umanità. Alessandro, dove lo avete intercettato questo film? L'ho visto qualche anno fa a Cannes, era in una delle sezioni collaterali dove veniva presentato, e l'avevo trovato molto seduttivo, molto elegante nella sua fattura, e ho aspettato molto tempo prima di concludere, insomma, l'acquisizione, perché anch'io mi dovevo iniziare a fare le ossa come distributore. La mia realtà è nata sostanzialmente un anno fa, con prima il giovane Karl Marx, poi la Deleur, insomma altri titoli che L'Uvon Salomè, che appunto ho visto suscitare un interesse nel momento in cui si trattano delle figure reali, ben raccontate, ben delineate, e soprattutto appunto sul, diciamo, su delle figure di donne particolarmente eccellenti, e quindi ho deciso di procedere in questo senso. Mi sembrava, diciamo, la situazione migliore quella di far uscire il film intorno alla festa delle donne. Spero che davvero questo film possa essere innanzitutto un piccolissimo contributo di un distributore microscopico a cercare di tenere invece alta la barra dritta per dire appunto che non ci fermiamo, che anzi in questo momento un messaggio che celebri la forza della scienza, la lucidità della medicina e della ricerca in mano a un personaggio femminile straordinario possa essere proprio un messaggio di rinascita in qualche modo rispetto alla situazione che stiamo vivendo. All'estero che vita ha avuto il film? All'estero ha avuto un grandissimo successo in Polonia, che, anche perché appunto Maria Strudowska aveva origini polacche, lei è una polacca immigrata in Francia, e si parla anche di questo nel film, cioè il film è molto stratificato, tra i tanti temi è anche quello della difficoltà dell'immigrazione, perché scienziata, donna immigrata all'interno dell'Accademia francese, era assolutamente un altro elemento di opposizione. Poi ha avuto una circolazione sia in Francia, in Germania, in Spagna, in Stati Uniti, per cui è un film che ha girato molto, e speriamo, insomma, che anche se con un po' di ritardo, d'altra parte alcune operazioni sono sempre difficili, insomma, da gestire con i tempi più appropriati possibili. Sono contento, insomma, che anche l'Italia abbia accettato e accolto questo bellissimo ritratto. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi e viva la scienza e viva Marie Curie. Alessandro Tiberio di Valmin, che lo distribuisce, sul film Marie Curie, di nuovo al cinema da lunedì 15 giugno 2020. Sergio Ponzio del Cine Detour sul documentario Che fare quando il mondo è in fiamme di Roberto Minervini, on demand da lunedì 8 giugno 2020. Sergio, ben trovato. Grazie, grazie Federico. Mi fa piacere presentare da te questo documentario, che è qualcosa che veramente ci sentiamo che ci appartiene come proprio linea nostra, come ispirazione stilistica, artistica. È un regista che abbiamo seguito come Detour dai tempi di Stop the Pounding Heart, che è stato uno dei primi film che fra l'altro abbiamo proiettato quando il Detour è riaperto nel 2014, e poi siamo andati a ritrovare anche i suoi film precedenti, quindi insomma è un regista che sentiamo molto vicino, abbiamo un'affinità. Il film è un documentario un po' limitativo, diciamo, come definizione nel caso dei lavori di Minervini, è stato presentato all'ultima mostra del cinema di Venezia, ed è sinteticamente, si può definire, un viaggio nel sud degli Stati Uniti, e il tema è quello del razzismo, della discriminazione degli afroamericani, e anche il tentativo da parte di questa comunità di tenere vive le proprie tradizioni culturali. Il regista è, come tutti saprete, so comunque chi non lo sa, dal nome si capisce è italiano di nascita e si è trasferito poi a studiare negli Stati Uniti e lì è rimasto, quindi la sua filmografia in realtà è tutta americana ed è un viaggio a tappe però in un'America poco conosciuta, l'America quella più profonda, quelle zone, quelle periferiche, quelle marginali, quelle più o meno corrispondenti a quella che gli americani chiamano la Bible Belt, la cintura della Bibbia, che più o meno diciamo è il cuore degli Stati Uniti più rurali, del sud soprattutto. E quindi infatti tutti i suoi film precedenti, Louisiana, Stop the Palm Heart, Low Tide, erano tutti diciamo dei viaggi, degli itinerari che andavano ad attraversare queste micro comunità marginate. E una delle caratteristiche del suo cinema è sempre stato quello di mescolare quindi il piano del documentario a quello della finzione, fino ad arrivare a confondersi completamente, a rendere impossibile ogni tentativo di scinderli, di riconoscerli. E un'altra caratteristica del regista è questa sua grandissima capacità di mimetizzarsi, quasi di scomparire dietro il gruppo di persone che poi sono il soggetto del film. In questo modo proporre sicuramente una realtà meno filtrata e guadagnare sicuramente la fiducia dei suoi soggetti. Il film racconta quindi di questa comunità che abita nei sobborghi di New Orleans e racconta di questa nuova America che però sembra molto simile alla vecchia America in quanto a discriminazione, in quanto a povertà di opportunità da parte di alcuni rispetto ad altri. Il film è raccontato attraverso le voci dei suoi protagonisti, naturalmente manca completamente la voce autoriale che invece parte attraverso i suoi protagonisti. Si racconta un po' la quotidianità, quindi dai momenti di festa, quindi il Mardi Gras, che è questo fra l'altro è una scoperta, è stata anche per me questo di ritrovare insieme i nativi americani e gli afroamericani ed è una tradizione che deriva dalla metà dell'Ottocento. In realtà, perché allora gli schiavi che erano stati appena affrancati in realtà non avevano nessuna possibilità di trovare lavoro, di trovare alloggio, assistenza di alcun tipo, erano sì liberi ma in modo molto relativo e molti di loro in quelle zone sono stati accolti proprio dalle comunità dei nativi americani locali, quindi sono stati protetti, sono stati accolti e spesso succedeva che donne native si sposavano con questi schiavi liberati. E quindi alla fine questi schiavi liberati si sono identificati profondamente anche con la lotta dei nativi contro l'oppressione dei conquistatori anglosassoni, oltre che con la loro stessa diciamo battaglia per l'emancipazione. E quindi tornando al film, sostanzialmente sono quattro linee di narrazione che seguono quattro protagonisti. Quella che domina assolutamente la scena è questa Judy, che ha una personalità prorompente, lei è nata in una famiglia di musicisti, a Tremesque, l'antico quartiere nero di New Orleans, e tra l'altro di tutta l'America, ed è la culla del jazz. Con una vita difficile, un passato molto difficile di alcol, di consumo di sostanze, di violenza, però lei si è rimessa in carreggiata con una forza d'animo notevole ed è arrivata a rilevare uno storico bar del quartiere, che ben presto quindi ridiventa un punto di riferimento. Ci si incontra per chiacchierare, bere, si suona e si discute anche sulle condizioni di venire negli Stati Uniti. Nel 2017 però Judy deve rinunciare alla gestione del bar perché è lì, come avviene del resto in tante altre metropoli del pianeta, arriva la gentrificazione anche lì e quindi si impennano i canoni d'affitto, il costo delle case e gli abitanti cominciano ad abbandonare pian piano l'unico quartiere e l'unica comunità che avessero conosciuto. Accanto a lei ci sono altri personaggi, sono due ragazzini, due fratelli, Ronaldo e Titus, Ronaldo più grande che ha questo spirito bellissimo, protettivo nei confronti del fratello più piccolo, vuole cercare di evitare il più possibile i guai previsti diciamo per i giovani, per gli adolescenti, più della sua comunità. Poi abbiamo altre storie, abbiamo la storia di Chief Kevin, che è appunto appartenente a questa tradizione degli indiani del Mardi Gras, e poi ci sono le Black Panther, di nuovo in strada le Black Panther dopo la loro epopea rivoluzionaria degli anni 60 e 70. Tornano a mobilitarsi, girano di nuovo i quartieri, si organizzano in ronde di autodifesa, vanno in giro a portare beni di prima assistenza agli homeless, alle persone bisognose e anche lì semplice conforto umano, e anche raccolgono informazioni, stigmatizzano gli episodi di razzismo che sono sempre di più in questa zona degli Stati Uniti, perché sta rinascendo anche il Ku Klux Klan, quindi oltre diciamo alla mano della polizia. Insomma, nel 2017 c'è stato di nuovo un exploit di fatti di sangue, di violenza per mano dei poliziotti, come se non bastasse, torna anche il Ku Klux Klan, e quindi diciamo che i problemi per questa comunità non finiscono mai. Lo stile del film è bello da vedere, un bianco e nero con una fotografia strabiliante, però non è mai una bellezza fine a se stessa e non è mai autocompiaciuto. Si è fatta qualche critica, nel senso che è un film in cui la violenza e la rabbia, la giusta rabbia, la giusta spirito rivendicativo dei personaggi è quasi come trattenuto dall'umanità, poi del modo in cui queste persone riescono a elaborare anche la loro condizione e non farla diciamo travaricare in azioni di violenza e di aggressione fino a se stessa. Quindi è un film profondamente umano da questo punto di vista, è un film che è piaciuto molto a Venezia, ci sono stati vari minuti di applausi quando c'è stata la proiezione per la critica. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Un abbraccio a te Federico, grazie mille come sempre, a presto, ciao. Sergio Ponzio del Cine de Tour sul documentario Che fare quando il mondo è in fiamme di Roberto Minervini, on demand da lunedì 8 giugno 2020. Il regista Luca Maggi sul suo documentario Storie del Dormiveglia, ora on demand. Luca, ben trovato. Ciao a tutti. Lo presenti? Prodotto da Kinè, che è una produzione di Bologna di documentario. Un documentario girato in un centro di accoglienza per senza tetto, nel quale ho lavorato per 6-7 anni. E io sempre portato avanti diciamo la mia attività di documentarista in parallelo a quella di operatore sociale. Ho iniziato a lavorare dapprima su commissione per un lavoro di videodocumentazione all'interno del centro, un lavoro che doveva durare una settimana e è durato 4 anni. E da lì è venuto Storia del Dormiveglia, che nasce proprio dalle suggestioni mie personali e dalle emozioni vissute come operatore notturno, quando vedevo le persone che nel cuore della notte venivano fuori magari fumando una sigaretta nella semioscurità e si svuotavano raccontando frammenti delle loro storie, e siccome mi ricordo che erano molto emozionanti, soprattutto nella cornice della notte che valorizzava questo senso di intimità ed erano storie molto forti, ho pensato, avendo questo punto di vista privilegiato, di poterlo tradurre visivamente, ecco, in un film collettivo in cui si alternano di notte i racconti di questi ospiti della struttura. È un lavoro di 4 anni, perché è un lavoro di osservazione, di attesa, costruito nel tempo, o sedimentato nel tempo. Tecnicamente, ecco, come sono state le modalità di ripresa? Sono partito i primi 2 anni da solo, quindi facevo delle riprese da solo e tutto è nato da una suggestione quasi carabaggesca, questo muro, questa luce che tagliava i volti per metà, no? Mi sembravano quasi dei pianeti che venivano fuori dall'ombra, e quindi è nato da un'immagine, quasi una suggestione fotografica, un innamoramento per una suggestione che mi sembrava in grado di canalizzare i contenuti molto bene. Poi successivamente ho iniziato a lavorare con Andrea Maccari, l'operatore che mi ha affiancato per 2 anni, quindi insieme abbiamo portato avanti questo viaggio e le tecniche sono state prima avvicinamento, parlare con le persone con cui avevo sviluppato un rapporto di grande intimità, perché in una struttura del genere vedi la gente negli aspetti più intimi, quindi ti raccontano le loro cose, la loro vita in strada, quello che hanno vissuto in strada durante la giornata, li vedi in pigiama, quando si cucinano, quando vanno in bagno, cioè, è proprio quasi una famiglia. Quindi questo punto di vista, come dicevo prima, è privilegiato proprio per questo. Questa intimità la volevo ricreare proprio attraverso questo stile di ripresa, ecco. Quindi non ci poteva essere una troupe, doveva essere una cosa molto intima, e al massimo è venuto Andrea con me, quindi è stato un lavoro di attesa, come andare a pesca. Aspettavo sì. Che si svegliassero le persone che ci stavano, e poi molti volevano evitare di essere ripresi, quindi quando non lavoravo nella struttura ci mettevamo lì ad aspettare che uscissero delle persone e raccontassero la loro storia, come andare a pesca, insomma. Sì, sì. Di fronte ai racconti di questi frammenti di vite, che impressioni hai ricavato? All'epoca c'ero dentro, io posso dire, più che i racconti, il contatto intimo con queste persone che sono degli outsider, degli emarginati, ho ricavato una forma di grandezza, capito, nel loro essere irregolari, una capacità di che ho voluto, sperato, spero di averla colta, di arrivare al cuore dell'emozione della gente, perché in quei momenti lì di difficoltà, che per loro sono prolungati, ecco, cioè sono momenti perenni di difficoltà e di annaspamento, che sono in un limbo che tra dormitori e strada, ecco, di arrivare ad attraversare la gente. Io spero che questo strumento del cinema almeno sia servito proprio per come l'abbiamo usato noi, proprio ad arrivare in maniera molto molto diretta al cuore delle persone, perché loro hanno dato tanto, ecco, e noi speriamo di avere colto i loro racconti, insomma. A presto, un abbraccio e un in bocca al lupo. Un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Il regista Luca Maggi sul suo documentario Storie del Dormiveglia, ora on demand. Con Gianluca Aguzzo di My Movies per parlare di My Movies Live, 50 film in streaming gratuito. Gianluca, ben trovato. Ciao, ciao. Raccontaci. Beh sì, siamo tornati online come Movies Live. Sentivamo assolutamente questa esigenza, era da tanto che non eravamo online con dei film, però abbiamo sentito la necessità di dover tornare dai nostri utenti e di riproporre il nostro modello, il modello classico di My Movies, che dà la possibilità di vedere tutti i film insieme nello stesso momento, quindi un po' una nostalgia alla sala, le sale purtroppo chiuse in queste settimane, e anche per volontà di molte case di distribuzione e anche di qualche esercizio che ci chiedeva appunto di rilanciare questa modalità, che a differenza delle modalità classiche di visione a casa ti dà la possibilità di essere, tra virgolette, a contatto con le altre persone e quindi condividere una visione. Siamo tornati dal 17 con, sì, proprio esattamente così, 50 film, di cui 4 prime visioni e 25.000 posti disponibili. 25.000 posti disponibili che stanno andando letteralmente a ruba, e abbiamo chiesto a qualche distributore di darci una mano e aumentare i posti disponibili. Tra questi, BIM ha immediatamente risposto e ha offerto altri 500 posti per i suoi film, per dare la possibilità a più gente di vedere i film. Quindi se avete visto sold out su qualche proiezione, oggi abbiamo la possibilità di vederlo, perché abbiamo, come dire, allargato le sale, questo internet lo permette. Ecco, ci hai citato la BIM, ci sono anche altre distribuzioni che fanno riferimento a voi? Sì, ci sono tante altre distribuzioni, The Balmain che ci presenta quattro prime visioni, Antropocene, L'epoca umana, a che fare con Il mondo in fiamme di Roberto Minervini e anche grazie a Octafilm, e poi abbiamo sempre di Balmain, abbiamo La Valeur che chiude la stagione. Un'altra bellissima rassegna è quella curata da Wanted Cinema, che è Donne Wanted. Qui apriamo con The Rider, un bellissimo film, The Rider, il sogno di un cowboy, un grande film assolutamente da vedere, ed estate 1993, altri film molto belli. Da segnalare sempre da Donne Wanted, Blue My Mind, è stato nelle sale qualche mese fa, è già disponibile in streaming sulla piattaforma di CG Entertainment, che ha permesso tutto questo, gran parte dei film sono anche distribuiti dalla sua piattaforma streaming e concessi gratuitamente al nostro pubblico, e ancora altre rassegne, Paris Film Festival, una grande community, una community che ha seguito questo evento con grande entusiasmo. I commenti sono stati bellissimi quando hanno saputo di questa iniziativa, e c'è una prima visione assoluta in streaming che è Burning, il film di Lee Chang-dong, che è un film straordinario, è uscito dalle sale, arriva su My Movies Live e poi tra pochi giorni è disponibile già su qualche piattaforma, penso proprio la sua piattaforma proprietaria, che è appunto quella di CG Entertainment. Per chi è all'ascolto, raccontiamo anche brevemente com'è strutturata una giornata tipo in streaming, gli orari e quante sono le proiezioni quotidiane. Sì, abbiamo tra due e tre proiezioni quotidiane. La domenica abbiamo fatto qualche proiezione in più, c'è anche una pomeridiana alle 15.30 con La Tartaruga Rossa, questa domenica 22, ma per esempio il 19, giovedì, c'è Milk e Persepolis. Alle 21 Milk, Persepolis è alle 22, e quindi niente, bisogna entrare. È esattamente come al cinema, bisogna entrare, bisogna prenotarsi un posto, si può chiacchierare con in realtà tutte le persone che sono nella sala virtuale, non solamente con il vicino, e alle 21 esatte bisogna presentarsi in sala. E c'è da dire una cosa, i posti appunto stanno andando a ruba, purtroppo sono limitati, ma anche per vivere questa atmosfera di sala cinematografica, quindi anche con la scarsità dei posti, è l'unica cosa che se non si arriva in tempo, cioè entro 10 minuti all'inizio del film bisogna entrare, altrimenti liberiamo il posto e lo cediamo ad altre persone che sono in coda per vedersi il film. Quindi la programmazione di giovedì è con Milk e Persepolis, due grandi premi Oscar, poi Le Invasioni Barbariche, ancora Oscar per la giornata di venerdì, e sempre venerdì Burning, L'amore brucia, questa anteprima assoluta che vi raccontavo. My Movies Live, 50 film in streaming gratuito, un saluto e un ringraziamento a Gianluca Guzzo. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Alla prossima, senz'altro, grazie, ciao. Con la distributrice Manuela Piovano per parlare dei progetti di Kitchen Film e Nomad Entertainment, ossia Cinerum e Green Eyes. Emanuela, ben trovata. Buongiorno a voi, grazie di essere con noi. Partiamo da Cinerum, cos'è? Il tuo cinema in una stanza, allora è un momento di grande rivolgimento, di new normal, di green, e noi ci stiamo cercando di adeguare, devo dire con un processo che era nel nostro caso già iniziato da tempo, perché abbiamo sempre creduto non tanto nel discorso assolutamente di superare le sale nel modo più assoluto, ma pensando che le sale dovessero diventare dei salotti, degli hub, come si dice con parola inglese, e c'è degli snodi, no? In cui però le persone ormai sparpagliate su tutto il territorio, anche felicemente, perché comunque abbiamo assistito negli ultimi decenni comunque ad un ripopolamento anche di villaggi, di luoghi, insomma un'inversione di tendenza rispetto al processo di urbanizzazione, ma dove non arrivano i contenuti. Quindi siccome noi crediamo moltissimo nei contenuti e nella cultura, quindi facciamo da sempre questo lavoro per diffondere sementi di cultura e non necessariamente per incassare i biglietti, siamo sempre stati attenti a questi aspetti, infatti avevamo Kitchen Film Shop per esempio da tanti anni, poi non lo promuovevamo perché non c'era mai stata l'occasione. Questa triste, purtroppo, e fatale e nodale situazione che si è creata invece ci ha dato come improvvisamente una spinta, naturalmente da soli. Anche questa è una cosa incredibile, perché con la Nomad ci diciamo da tanti anni, ci incontriamo sempre a rendezvous a Parigi, ci siamo due donne, ci diciamo sempre facciamo delle cose insieme, poi non c'era mai l'occasione. Un'altra, diciamo, aspetto paradossale di quello che sta accadendo nel mondo è che queste distanze si sono improvvisamente accorciate, anche se virtualmente, e quindi è stato possibile riflettere insieme per capire che cosa potevamo fare. Va detto anche che io mi occupo anche di questo villaggio in Piemonte dove vivo, in questa piccola comune, no, fondata 40 anni fa, eccetera, dove facciamo i giorni di Orosia, che sono giorni dedicati al rapporto col territorio, alla Via Francigena, alle relazioni umane, diciamo così, new normal, new green, e durante queste giornate avevamo negli ultimi anni ospitato proprio un film della Nomad, è un film nostro della Kitchen Film, che sono rispettivamente Petit Paysan e Nessun Uomo Un'Isola, che sono due film che ci siamo ritrovati lì, ma profetici, incredibilmente in anticipo sui tempi per quando li avevamo presentati, cioè due anni fa e l'anno scorso. E quindi abbiamo detto, ma noi siamo partiti proprio da questi contenuti, abbiamo detto, ma accidenti, abbiamo questi due film che tra l'altro come al solito non sono stati sufficientemente sfruttati, sia nelle sale che per quanto riguarda Petit Paysan anche nelle piattaforme, per quanto riguarda Nessun Uomo Isola è inedito, è completamente inedito per le piattaforme, per il VOD, no, per il video on demand, e quindi abbiamo detto basta, anche perché è un film sottotitolato, quindi c'è un rifiuto tra l'altro non solo delle sale ma anche delle piattaforme sui film sottotitolati, e quindi abbiamo detto basta, lanciamoci, abbiamo costruito questa piattaforma che è molto bella, di cui siamo molto orgogliosi, abbiamo dato questo titolo un po' alla Virginia Woolf perché siamo partiti da una stanza tutta per sé, per opporci, anche contrapporci a queste piattaforme altisonanti che promettono cinema eccetera, contenuti, invece noi vogliamo veramente lavorare su un salotto anche se globale, quindi vogliamo lavorare veramente sulla cultura, sugli autori e cercare di diffonderla, no? C'è una bellissima signora in Val d'Aosta che ha fondato una società di sementi, no, di sementi per l'orto, che si chiama Seed Vicious. Ecco, allora noi Cineroom è un po' una Seed Vicious, cioè l'idea di disseminare questi contenuti, e partiamo da una stanza, dalla piccola stanza che bisogna avere per poter pensare, per poter riflettere, per potersi anche un attimo distaccare dal mondo, per andare ancora più nel mondo dopo. E poi abbiamo pensato a questa rassegna, diciamo così, a questo Green Eyes, cioè con occhi green, per proporre appunto questi due film, Petit Paysan e Nessun Uomo in Isola. I riferimenti quali sono? I riferimenti per gli web sono www.cine-room, come stanza, rom.com. Green Eyes è un hashtag per i social, dal 15 giugno, perché prima c'è ancora soltanto il countdown, e dal 15 giugno ci sarà questa stanza online dentro cui si può andare o per abbonamento o acquistando i singoli contenuti a prezzi molto molto molto politici, come si diceva una volta, dove si possono appunto vedere sia i film in rental o in buy, quindi si può comprare e scaricare sul proprio computer per vederseli tutta la vita e tenerli in magazzino, diciamo così, in libreria, oppure si possono noleggiare per un periodo di 3 giorni durante il quale si possono vedere quante volte si vuole, oppure infine ci si può abbonare a, mi sembra adesso, non mi ricordo, perché poi c'è un problema di conversione con i dollari, perché utilizziamo la piattaforma di Vimeo, che è anche molto sperimentale, siamo forse il primo che la usa in Italia, quindi hanno ancora dei problemi di trasferimento dei dollari in lire, però non importa, perché tanto la carta di credito fa automaticamente in questo caso il downgrade, perché l'euro in questo momento è inferiore al dollaro, quindi ci saranno dei prezzi esposti in dollari che però poi costeranno ancora di meno, comunque si aggira il prezzo dell'abbonamento su 1,50 euro, il noleggio sui 2,50 euro, 3 euro. Poi ci sarà un gioco bellissimo, ispirato appunto al fresco di Ambrogio Renzetti, del buono e del cattivo governo, anche questo bellissimo affresco dipinto sul Palazzo Comunale di Siena, che è il filo conduttore di Nessun Uomo Un'Isola, che pur essendo un film francese fa di questo affresco italiano e del Rinascimento italiano e anche del movimento territorialista italiano una sorta di manifesto, con la Chiara Frugoni, che è questa medievalista, con Salvatore Settis, che fanno questo discorso proprio del rapporto col territorio, non paesaggistico, pittoresco, turistico, ma veramente moderno, cioè di ripopolamento, di ricostituzione di un tessuto molto importante anche per tenere in piedi una società, una comunità, anche le città, no? E quindi noi ci siamo ispirati a questo affresco e abbiamo costruito un gioco. Bisogna scegliere una carta, perché si dovrà dire all'ufficio affari del futuro, che è sempre uno dei personaggi del film di Dominique Marchais, come lo si vede questo futuro. Quindi ci sarà questo tavolo di tarocchi ispirati all'affresco, c'è questo bellissimo promo di Giacomo Del Buono che in un minuto lancia questo monito, bisogna che ci occupiamo del futuro, e insomma noi chiediamo a chi ha voglia di divertirsi di scegliere una carta, di dirci come vede il futuro, e in questo modo otterrà anche uno sconto e poi parteciperà alla tavola rotonda del 30 giugno, tavola rotonda dove ci saranno Steve Della Casa, Caterina Taricano, invece di conduttrice ancora una volta dopo le 5 Cinericette, grande successo, e i due registi dei due film, esponenti di Slow Food, della CIA, che avevano già sostenuto l'uscita di Petit Paysan nazionale in sala, e speriamo anche un paio di sale, perché comunque, ripeto, la piattaforma deve essere uno snodo che amplifica le potenzialità della sala e della fruizione, comunque un po' come un concerto, insomma, non è entrato mai in conflitto da anni ed anni con la casa discografica, c'è comunque una collaborazione, anzi uno si ascolta il disco e poi va finalmente a vedere anche Udo Ughi dal vivo. Quindi l'idea è un po', è vero che qua gli attori sono sempre di cartone, però è anche vero che in sala tu hai il pubblico, tu hai gli altri, tu hai questa specie di rito collettivo che nella tua stanza non hai, ma nella tua stanza ti prepari per il rito collettivo e viceversa, in uno scambio virtuoso anche di contenuti. E finisco dicendo anche che è sempre su questa piattaforma, che sarà aperta dal 15, cioè da lunedì prossimo, ci saranno anche ovviamente dei contenuti extra accessibili per gli abbonati, e naturalmente anche questi contenuti extra, se poi un domani riaprissero le sale, sarebbe interessante che venissero poi in questa specie di scambio di relazionalità virtuosa a loro volta diffusi nelle sale. Quindi uno va a vedere un film, vede anche tutto quello che c'è intorno ad un film, backstage, interviste, digressioni. Ecco, noi abbiamo anche inaugurato con Cinerum così il saggio ispirato a, perché il regista Giacomo Del Buono ha fatto questo minutino, diciamo, ispirato a Nessun Uomo Un'Isola con materiali del film, che non è però un trailer, non è un promo, ma è una sorta di rivisitazione, una specie di Elzeviro, di piccolo haiku, di un poemetto, che vedrete, vi invito poi a guardarlo sulla home page gratuitamente, sarà anche diffuso attraverso i social, appunto sul il buono e cattivo governo, Green Eyes. Il doppio progetto Cinerum Green Eyes per Kitchen Film e Nomad Entertainment. Un saluto e un ringraziamento alla distributrice Emanuela Piovano. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Viva, viva il lupo e vivi. Vivi e viva. I registi Michele Mellara e Alessandro Rossi sul loro documentario La febbre del fare, Bologna 1945-1980, sul cinema Lumière Online dal 9 all'11 giugno 2020. Ben trovati. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Lo raccontiamo? Sì, lo raccontiamo. Innanzitutto grazie a Federico, insomma, per l'ospitalità, al suo programma che dire seguiamo anche a distanza e che è un bello spaccato del cinema italiano. Insomma, è invece un documentario, è un film documentario del 2010 che viene riproposto, come dicevi giustamente tu, dalla Cineteca di Bologna, adesso in programmazione a Lumière Online, e racconta la storia politica amministrativa della nostra città, una città che è stata negli anni un punto di riferimento a livello nazionale per la cosiddetta buona amministrazione, l'amministrazione del PC. La raccontiamo dal dopoguerra, quando Giuseppe Dotto, un partigiano, diventò sindaco della città degli ex partigiani e con una grande voglia comunque di rinascita che si fondasse però su alcuni principi cardine, che erano la solidarietà, l'equità, la capacità di condividere comunque lo spazio comune, sia spazio inteso come fisico, quindi l'urbe, la città, sia spazio inteso invece una dimensione più astratta, quindi la cultura, il sociale e la politica. Mi vengono in mente in questo lungo arco temporale due episodi difficili per l'intero paese e penso anche per Bologna in quel periodo. I fatti del 1960 per il governo Tambroni, morti di Reggio Emilia, e poi il 1967 i carri armati a Bologna. Sì, il primo in realtà non rientra all'interno del nostro documentario, appunto è Reggio Emilia, anche se ci sono echi nel cambiamento della gestione amministrativa della città, entra proprio all'inizio degli anni 60, quella che viene chiamata la Nouvelle Vague, ossia la nuova onda degli amministratori guidata dal sindaco Guido Fanti, che trasformò in maniera radicale l'urbanistica, il sistema degli asili e il sistema sociosanitario. La parte invece degli anni del 77 è presente fortemente all'interno del nostro documentario. Nel terzo capitolo, il film infatti è diviso in tre capitoli più un prologo e un epilogo, e il terzo capitolo si chiama appunto 77 Radio Libera e parte da dei materiali allora inediti, poi successivamente usati da altri documentari, fino operatori interni al movimento del 77. Quindi raccontiamo il movimento dal suo interno e lo raccontiamo soprattutto dalla prospettiva dell'ala cosiddetta creativa, la si chiamava così allora, quindi meno l'ala politizzata, meno quella delle manifestazioni, dei grandi dibattiti anche se ci sono, ma questi stessi dibattiti vengono raccontati nei loro aspetti diciamo più sociali e culturali. Questo capitolo è guidato dalla musica di un concerto, degli Spiantos, alla cantina, che era un posto del tutto informale, appunto una cantina affollata di gente, e cambia anche proprio lo stile del racconto in quel momento lì all'interno del nostro documentario, perché da un impianto diciamo più classico di racconto si arriva all'esplosione dello sguardo sulla città. La città non è più raccontata solo dalla prospettiva degli amministratori, ma la città diventa anche un luogo di antagonismo e quindi lo schermo si scompone in tante prospettive. Rimane quella degli amministratori, ma viene dominata dalla prospettiva del movimento, che fu comunque una spaccatura sensibile nella città, perché si venne a mancare un rapporto che c'era sempre stato tra una parte forte della cittadinanza e gli amministratori, che cominciarono a faticare a capire cosa fare per poter continuare a innovare e a trasformare la città nel meglio. Ci hai in parte detto di questa suddivisione in capitoli. Come avete deciso appunto di organizzare il lavoro per parlare di questi 35 anni? Sì, l'abbiamo organizzato, come diceva Alessandro prima, in tre capitoli, preceduti da un prologo e chiusi da un epilogo. Questi tre capitoli raccontano il primo, la grande stagione della ricostruzione del dopoguerra, una ricostruzione, come dicevamo prima, fisica, non dimentichiamoci che Bologna era al 40% distrutta dai bombardamenti, e una ricostruzione però anche ideologica nel senso alto del termine, cioè di prospettiva politica di quella che sarebbe stata poi la città, e quindi un ascolto rispetto alle classi anche popolari, più basse, alla classe operaia. Questo è il primo capitolo, quindi il primo capitolo dominato appunto da Giuseppe Dotta, come dicevamo, partigiano, che si ritrova ad amministrare la città, medaglia d'oro per la resistenza. Dopodiché, alla metà degli anni 60, c'è un altro capitolo che noi abbiamo chiamato la Nouvelle Vague, che racconta una nuova composizione della compagine degli amministratori, amministrazioni diciamo che più addetti anche se vuoi allo studio, a formazione anche teorica alta, che come dire cercano di stilare un patto tra le classi popolari e l'imprenditoria diciamo bolognese, mantenendo sempre come punto di riferimento della politica una politica sociale, una politica per tutti e un accesso ai servizi. Due sono i nomi che ci vengono in mente di questa stagione: uno ovviamente è il sindaco Guido Fanti, è sindaco per il primo mandato e poi diventa presidente di regione, nel 70 si formano le regioni in Italia, e l'assessore all'urbanistica che viene da Roma, Campos Venuti, che è quello che, come dire, organizza guiderà e gestirà il disegno urbano della città, facendo alcune cose molto importanti. La prima è preservare il centro, è preservare il centro delle demolizioni e da edificazioni alte, per ristrutturarlo e preservarlo come bene collettivo della città. La seconda è, usando le sue parole, cito, inondare di verde i quartieri periferici. Tanto è vero che ci racconta nel documentario Campo Ostenuti quando università anche prestigiose dagli Stati Uniti venivano con i loro professori a studiare il modello urbano di Bologna, non riuscivano a capire quali fossero i quartieri per i ricchi e i quartieri per i poveri, perché le periferie, pensiamo alle periferie anche di due quartieri problematici come la Barca e il Pilastro della città, sono inondate di verde, appunto, spazi che possono, come dire, essere fruiti dai cittadini e che danno comunque un polmone d'ossigeno ai quartieri. L'altra cosa, che è legata sempre a questa prospettiva politica, è non edificare sulla collina, cioè la collina bolognese è una delle meno edificate d'Italia, perché la collina viene intesa come bene pubblico per tutti i cittadini e quindi sotto un certo aspetto va mantenuta con un disegno urbanistico che mantiene molto bassi i coefficienti di edificazione per metro cubo e, come dire, non destina molti di quei terreni collinari a terreni edificabili. Rispetto alla scelta degli interlocutori su cui sviluppare il racconto? La scelta è abbastanza particolare, nel senso che la città è raccontata dagli amministratori, quindi non ci sono commenti sulla città, ma c'è una presa diretta di chi l'ha amministrata. Fra l'altro persone che di solito sono anche abbastanza oscure, c'era il segretario generale del comune per tantissimi anni, c'era Dozzo, ovviamente non c'era più, l'unico sindaco presente in vivo è Guido Fanti e gli altri sono assessori e amministratori, cioè segretari comunali e impiegati comunali, che però parteciparono attivamente alla trasformazione, perché bisogna pensare che all'epoca, soprattutto negli anni 60, non era l'assessore che dettava semplicemente delle impostazioni politiche e poi c'erano degli esecutori, ma alla gestione alla gestione delle innovazioni, dei cambiamenti, oltre a una forte partecipazione popolare, per cui per dire, per arrivare ai nuovi asili impiegarono mesi e anni per discutere con le famiglie, fecero convegni, elaborarono un pensiero e poi gli amministratori, cioè i segretari, i dirigenti partecipavano direttamente all'elaborazione della novità o della trasformazione, quindi era un lavoro collettivo molto forte, molto meno verticistico rispetto al presente e di una politica fatta molto più per strada. Anche il discorso di Campo Svenuti o di Cervellati che faceva prima Michele era, e lo raccontiamo nel film, si svolgeva molto in mezzo alla città e quindi non parlano solo degli assessori ma parlano anche dipendenti comunali. Ci lasciate tutti i riferimenti web per seguirlo? All'interno dell'iniziativa Io Resto in Sala, che vede la Cineteca programmare le sue due sale virtualmente, quindi online, ci si può accedere dal portale della Cineteca, dalla programmazione normale della Cineteca, come se uno volesse andare alle sale della Cineteca, da lì c'è il collegamento per la biglietteria e uno sceglie la giornata in cui può vedere il film è sempre alle ore 19, a parte il sabato che è alle 18.30, però insomma è un orario di tardo pomeriggio, e sceglie il giorno di programmazione, acquista il biglietto che ha dei prezzi molto contenuti, va dai 2,90 ai 3,90, una cosa del genere, insomma comunque delle cifre molto popolari, come si addice a questo film molto popolare. Uno quando si acquista il biglietto può vederlo anche fino a un'ora dopo dall'inizio dell'orario di programmazione e rimane la possibilità di vederlo per 36 ore. Se uno lo interrompe può riprenderlo anche dopo, per dire. Sì. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Presto, ciao. I registi Michele Mellara e Alessandro Rossi sul loro documentario La febbre del fare, Bologna 1945-1980, sul cinema Lumière Online dal 9 all'11 giugno 2020. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.